Before we join Sarah and Lorenzo in the dining room, la sala da pranzo, which actually means the lunch room, here are some new words and phrases. Ascolti l'italiano, poi l'inglese, di nuovo l'italiano e dopo ripeta. Cominciamo. Hanno. You have, plural, formal, or they have. Hanno. Cliente. Guest. Cliente. Prego. Please. Prego. Tavolo. Table. Tavolo. All'aperto. Outside. All'aperto. Sulla terrazza. On the terrace. Sulla terrazza. Controllo. I check. Controllo. Il panorama. The view. Il panorama. Di notte. By night. Di notte. Now test yourself on that set. You'll hear the Italian with a pause between each word or phrase. In the pause, say the English equivalent. Here's the first one. Hanno. You have, plural, formal, or they have. Cliente. Guest. Prego. Please. Tavolo. Table. All'aperto. Outside. Sulla terrazza. On the terrace. Controllo. I check. Il panorama. The view. Di notte. By night.